RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Giornate difficili, giornate complicate, giornate in cui a Radio 24 stiamo seguendo assiduamente l'attualità. Cerchiamo non di sottovalutare, di dimenticare, però di passare anche due ore cercando di parlare di cose belle, e ovviamente in qualsiasi momento la redazione avesse bisogno della linea, noi siamo qui. Siamo qui con RadioTube in diretta fino alle 18, 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola Marta Cagnola, che poi sono io, sia per Twitter che per Instagram. Allora, oggi parleremo di musica, perché avremo un ospite che amo molto, parleremo un po' di cinema senza rubare il mestiere a Franco D'Assisti, che poi farà tutte le recensioni dei film in uscita nella Rosa Purpurea, ma noi ogni tanto ci concediamo di ospitare qualche amico che passa di qui, solo per appunto avere il piacere di ospitare degli amici. E poi ci sarà la seconda ora di RadioTube con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ah, poi dobbiamo fare anche un in bocca al lupo a un amico che si collegherà con noi tra circa 40 minuti. Ma da cosa vogliamo cominciare? Beh, io ogni volta che ho lei in studio voglio introdurla con questa musica. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. Allora, questa era Right Said Fred, I'm Too Sexy, che era una canzone che parlava delle modelle, delle sfilate. Ormai ha un sacco di anni questa canzone, ma la trovo sempre divertentissima. E ogni volta che parliamo di moda non possiamo che parlarne con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Tra l'altro mi fa sorridere questo, perché adesso è pieno di articoli, ma anche molto seri, su testate molto serie, dove si dice: ma riusciremo a rendere la sostenibilità sexy? Perché è un po' il tema, no? Anche, e la risposta che... è? Ma sì, che ci si riesce. Sì. Allora, intanto devo per forza chiedertelo: giorni di sfilate a Milano, per noi comuni mortali, e soprattutto la grande noia del traffico, cioè Milano è in questi giorni ovviamente il delirio, non posso che chiederti se l'allarme coronavirus e per certi versi anche la psicosi coronavirus hanno avuto un riflesso sulle sfilate, sulla settimana della moda. Guarda, oggi ne abbiamo 22, è dal 4 di febbraio che siamo tutti preallertati, perché quello è stato il giorno della conferenza stampa del presidente della Camera della Moda Carlo Capasa, che aveva detto, quasi prevenendo un po' tutte le domande, avremo 1000 cinesi in meno tra buyer, giornalisti, perché non verranno gli stilisti cinesi, tranne uno stilista cinese che vive in America e che quindi, triangolando, è comunque riuscito a venire. Dopodiché sappiamo, con gli ultimissimi sviluppi, proprio ieri Carlo Capasa ha detto: calma e gesto tutti quanti, le sfilate, la settimana della moda che si conclude lunedì è andata benissimo e non dobbiamo allarmarci. Probabilmente qualche problema in più l'avranno a Parigi, soprattutto per tutti gli appuntamenti all'interno degli showroom, e gli stilisti cinesi hanno dato tutti forfè naturalmente, però lì probabilmente se la crisi continua, come è probabile che continui finché non avremo un vaccino o una cura, insomma, ma definitiva, a Parigi qualche conseguenza in più ci sarà. Accidenti. Allora, però raccontami un po', intanto sono curiosa, da appassionata di spettacoli, se c'era qualche personaggio interessante in questi giorni non a Milano. Non so se anche loro sono stati presi un po' da questa psicosi collettiva. Accidenti. Da coronavirus. Ce n'erano meno? Ce n'erano un po' meno, un po' di personaggi strani. Poi sai, c'erano stati tutti questi red carpet prima, dove si è visto di tutto, con naturalmente anche tantissimi marchi italiani vari protagonisti. Penso alla mia adorata Billie Eilish, che insomma si è presentata prima ai Grammy e poi agli Oscar tutta vestita Gucci. Quindi, e questo è soltanto uno dei tanti marchi che si sono, marchi italiani che si sono visti sulle passerelle, quindi forse per questo, quindi insomma, Gucci dopo Sanremo ha segnato anche gli Oscar, ecco, diciamo così. Sì, sì, no, lei era fantastica, io l'adoro, non so tu, ma a me è veramente E tra l'altro proprio anche con dei look che sì, sicuramente lei sarà stata contattata dagli uffici stampa di Gucci o di marketing, perché così funziona, però non credo che sia il tipo da farsi imporre, da farsi un look, imporre qualcosa, aver detto, certo, lei, voglio questo, certo, e quello. Certo, certo. Allora, che cosa c'è intanto, che stagione hai, ecco, visto e stai guardando in questi giorni? Tenete sempre presente che siccome le sfilate sono una cosa nata in era pre-digitale, aveva un senso insomma far vedere delle cose che poi ci si prendeva il proprio tempo per vedere nei negozi. Quindi in questo momento tecnicamente è la stagione autunno-inverno 2020-2021, quindi cose che vedremo, dovremmo vedere nei negozi alla fine di questa estate, inizio di settembre. Poi tutti i marchi per questo meccanismo del see now, buy now, adesso che l'ho visto in passerella lo voglio comprare, magari qualche pezzo lo mettono in vendita subito, lo ha fatto Furla con una delle sue borse, lo ha fatto Hogan con delle sneaker, però bisogna un po' trattenersi. Poi, come avevo detto l'ultima volta che l'ascoltatore mi aveva preso anche in giro, dalle sfilate non si butta niente, quindi comunque tutto lo streaming e tutte le foto che ci sono da qui a settembre serviranno a ingolosire i vari fan dei vari marchi. Marchi, e serviranno anche i marchi di fast fashion per scopiazzare un sacco di cose. Adesso veramente stamattina sono passata, non dirò il marchio, così per carità di patria, in un negozio di un marchio di fast fashion molto famoso in via Torino, c'erano in vetrina delle scarpe che vi giuro sono la copia di quelle di Bottega Veneta, dove naturalmente hanno un costo diverso, ma lì c'è l'idea. E in questo lì da Bottega Veneta, qui c'è la scopiazzatura, quindi mi spiace, ma proprio farlo così, voglio dire, va benissimo il fast fashion, però come mi disse una volta Miuccia Prada, però le idee le devono avere anche loro, non possono scopiazzare, certo, le nostre. Ragionissima. Allora, un conto è se magari si scopiazza il colore che va di moda, certo, il taglio, però allora dimmi invece cosa hai visto di bello. Cosa hai visto, chi ti ha entusiasmato? Io che mi sono veramente, io sono una appassionata e una fan degli artigiani, è stato bellissimo la presentazione di Keaton, questo marchio napoletano storico che da qualche anno nasce come marchio da uomo ma da qualche anno ha una linea da donna, quindi presenta a Milano, tra l'altro in quello che fu il Palazzo di Ferré, che è diventato Palazzo Keaton vicino a Brera, e c'erano 12 artigiani venuti apposta da Napoli e a ognuno di loro era stata assegnata una delle fasi di lavorazione delle giacche, quindi stando lì un'ora, tra l'altro con una piccola orchestra che suonava, uno poteva proprio avvicinandosi, loro erano concentratissimi e non si lasciavano distrarre, però si poteva proprio vedere come nasce una giacca o comunque come inizia a nascere una giacca, perché poi in realtà ci vogliono moltissime ore, quindi non abbiamo visto il prodotto finito, però ci siamo tutti resi conto di che manualità, di che maestria, di che magia ci sia nel creare una giacca a mano. E forse farebbe bene anche a tutti quelli che dicono ah vabbè, ma parlate di moda, cose futili. No, c'è una sapienza nell'artigianato unica. Assolutamente, ed è proprio quasi tutte le aziende che hanno questo come valore hanno poi delle scuole interne che tra l'altro, lo dicono un po' tutti, stanno ricominciando ad attrarre ragazzi giovani, perché è un mestiere bellissimo, come dici tu, è qualcosa al confine con l'arte. Quella giacca, tutte quelle giacche create dagli artigiani di Napoli sono una diversa dall'altra, sono come dei pezzi unici. Ti chiedo un'ultima cosa, Giulia. Sui titoli dei giornali, questa esternazione che io non ho ben capito di Giorgio Armani. Giorgio Armani, che cosa ha detto e che cosa intendeva dire? C'è questo momento nel cosiddetto backstage, cioè subito prima della sfilata, in cui gli stilisti magari danno qualche messaggio. Lui ha dato un messaggio che secondo me andrebbe molto approfondito, cioè su come la moda a volte... Per le donne che sono meno sicure del loro gusto, del loro look, diventa un'imposizione, una violenza. Ha usato una parola molto forte che è stupro, e alcuni giornali ci hanno fatto il titolo, ma il discorso, secondo me, io spero magari di poterlo fare un domani se Giorgio Armani vorrà, questa idea che appunto invece non deve essere una cosa, ce lo diciamo sempre, non c'è più il total look, non c'è più l'imposizione, io devo poter scegliere, sentirmi libera e non sentire la moda come un'imposizione, i famosi trend. Lui ha anche detto: i trend non esistono per me. Ha ragione. Poi purtroppo si estrapola magari una parola, che è una parola forte, e non si capisce fino in fondo quello che voleva dire, che secondo me invece è un messaggio interessante. Ti chiedo un'ultima cosa, non stavo aprendo io il microfono perché stavo leggendo un messaggio interessante, perché ci sono ascoltatori che ci scrivono: ma certi marchi non sono più italiani, cioè la proprietà del marchio finisce a fondi stranieri. Armani è italianissimo, però abbiamo citato Gucci è di fatto di proprietà del colosso francese Kering, l'amministratore delegato è un italiano, Marco Bizzarri, un uomo eccezionale, lo stilista è Alessandro Michele, un altro personaggio eccezionale, e c'è da dire, lo abbiamo detto tante volte, che questi marchi, quando vengono comprati da grandi gruppi seri, soprattutto francesi, in realtà potenziano le attività in Italia, restano profondamente italiani nella fattura e nel pensiero, quindi tutto sommato è vero, hanno una carta d'identità dove non c'è più scritto italiano, ma sono italiani nell'anima. Grazie sempre chiarissima Giulia Crivelli, poi off the records mi faccio raccontare tutti i dettagli, è ovvio, finita la trasmissione vi farò raccontare tutto. Grazie Giulia, viabilità, e poi un grande ospite di musica. Giulia, stai con noi, a tra poco. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Radio Tube Social Village. Lui è appena tornato da Sanremo, io lo adoro, vabbè, non posso che introdurlo così. E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo. Ma cosa aspetti a dire basta? E in quello specchio a urlare cambia faccia. Non sei arrivato qui per sbaglio, hai dato tutto il peggio, ma hai fatto del tuo meglio. Il confronto, uno dei pezzi più belli di questo Sanremo, uno di quei pezzi che vanno scoperti poco a poco, e io sono contentissima che sia tornato a Radio 24 Marco Masini. Ciao, grazie. Allora, ciao. Bentornato e buon anniversario. Com'è che si dice in questi casi? Che fai non è un compleanno, è un anniversario. Beh sì, è anche un compleanno poi alla fine, perché ho invitato tanti amici e mi hanno portato un regalino. Ah, vero. Andiamo per ordine. Intanto questo Sanremo archiviato, però ancora questa canzone, dai, ce l'hai addosso, ce l'hai sulla pelle, perché una canzone che ti porti a Sanremo è una canzone poi che ti rimane dentro per un po'. Sì, poi sono quelle canzoni che magari non scopri subito, le scopri. Sono canzoni che comunque partono da una autobiografia, diciamo, intesa come una storia che hai vissuto in un momento anche di crescita, di evoluzione, di maturità. E che va a cercare poi i luoghi comuni, e li cerca forse in tanti uomini, perché questa è una canzone da uomini, perché l'uomo è vigliacco, ha paura di guardarsi allo specchio, ha paura di parlarsi, ha paura di confrontarsi con se stesso, però ammette anche la sua vigliaccheria, ammette anche le sue paure, ammette anche di volerlo fare prima o poi, magari non lo fa mai, se lo fa dopo aver scollinato, come si dice in Toscana, un certo, diciamo, una certa età anagrafica, e lo fa da grande. tu ti senti uno, ti senti grande, o perché io non so, non sono sincronizzata con la mia età anagrafica. Tu ti senti sincronizzato con la tua età anagrafica? Forse mi manca avere un figlio. Avendo un figlio forse si sente più sincronizzati con i 40-50 anni. Il confronto con un figlio credo sia importante. Non ho avuto questa fortuna, non ho fatto un figlio, quindi forse ancora sono un po' immaturo. Allora, avevi detto che saresti andato a Sanremo per imparare, una cosa che mi ha colpito tantissimo, perché tu hai detto ci sono persone di tutte le età, di tutte le generazioni, tanti tipi di musica, tante storie musicali che posso imparare. Com'è andata? È andata bene, ho imparato tanto. Ho imparato dai giovani perché ho cercato subito un approccio con loro. Con alcuni mi è venuto meglio, con altri un po' peggio, però... Non ti chiediamo con chi, non sono curiosa. Però io cerco di fare amicizia, cerco di dare me stesso, di essere immediatamente a contatto con le nuove realtà. Lo faccio con gli autori, lo faccio con gli artisti, perché voglio assolutamente essere allineato con questo tempo. E nonostante arrivi da generazioni ovviamente diverse, però credo che essere vivi voglia dire saper stare in questa realtà. Come si ha la forza di dire vado avanti, le cose vanno avanti, e mantenere la barra dritta per 30 anni? Ma la barra dritta non l'ho tenuta, nel senso, le tempeste le ho vissute e le ho subite. Ma questo fa parte della vita, credo faccia parte della vita di tutti noi, non soltanto di chi scrive canzoni. Credo che con il sacrificio e con il lavoro si possa sempre credere nel domani, nell'uscita dal tunnel, con difficoltà senz'altro, però nel fatto che comunque il lavoro alla fine ti premi. Non conosco altri metodi, non conosco né la rabbia, né l'odio, né il vittimismo, né l'orgoglio. Io conosco soltanto l'amore per questo lavoro, per la musica, per le cose da scrivere, per le storie da raccontare, e sono sicuro che amando il proprio lavoro si possa riuscire a superare ogni tipo di ostacolo, anche se magari può sembrare molto molto difficile da superare. Le canzoni che hai riunito in questo album del 30° anniversario, a parte gli inediti, sono canzoni che noi stessi giornalisti, la prima volta che le abbiamo ascoltati, perché racconto, le abbiamo ascoltate in un ascolto pubblico, in una conferenza stampa, quindi eravamo tutti insieme. Ci siamo stupiti perché le sapevamo tutti a memoria, un po' ci siamo stupiti perché abbiamo ancora la memoria, però magari non le sentivamo da molti anni, eppure i testi delle canzoni di Marco Masini sono tutti lì in un cassettino della mente. Secondo te perché? Ma non lo so, io credo di avere raccontato le storie di tanti, soprattutto in un momento, in degli anni difficili, dove la musica aveva un ruolo fondamentale e dove io ho avuto la fortuna di prendere il timone in quegli anni lì e di guidare una generazione smarrita verso delle verità ma mai arrivate, ma verso una speranza, perché le mie canzoni che affrontavano in quegli anni gli argomenti veri, gli argomenti crudi, gli argomenti reali, per chi voleva vedere la realtà davvero, venivano considerate canzoni di speranza. Per chi non la voleva vedere, ovviamente no. Di conseguenza, siccome ho cercato di raccontare la verità, di solito la verità resta. Le bugie passano in fretta e la verità resta. L'ironia mi porta via dalla malinconia, dalla nostalgia, ma comunque a quei tempi io vivevo la realtà che si viveva a quei tempi. Forse questo può essere un motivo. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, non credo che siano poi tanto migliorati, perché le cose, se le ascolti adesso, hanno ancora una loro importanza, e quindi credo che alla fine quello che resta sia anche un certo tipo di verità abbinata a una melodia, abbinata a un ritornello, abbinata a uno slogan, abbinato a qualcosa che comunque ti smuova l'anima e ti smuova le corde e le emozioni. Senti, detto sei molto ironico, io non voglio tornare sulle polemiche di questi giorni che hanno coinvolto Elodie, però ti devo solo dire che essere ironico ai giorni d'oggi è difficile, perché qua fare le battute uno deve stare attento. Sì, sì, no, ma Elodie è una bravissima artista, è anche molto brava e molto bella, quindi tra l'altro credo che sia... diciamo in una rampa di lancio importante per un genere particolare che lei si è inventato. Andromeda, per esempio, è un pezzo molto bello, molto difficile, e quindi io gli auguro veramente tutto il bene di questo mondo. Però io sono a dieta, se la prossima volta mi vedi e mi dici sono troppo dimagrita, io la prendo benissimo. Quindi tu segna, io la prendo strabene. Va bene. Allora, voglio solo dire i nomi di coloro che hanno fatto i duetti con te sul disco: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Imodà, Neck, Gigi D'Alessio, Giovanotti, Annalisa, Bianca Zei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza. Questo fa capire come quando una persona vive la musica in maniera serena, professionale, con dei bei rapporti con le persone, può tirare sul telefono e dire... la fai una canzone con me? E ti dicono di sì. Beh, ovviamente io vivo la vita in maniera serena, la musica in maniera serena, e cerco di far sì che la vita possa essere per me la musica e viceversa. Però in questo caso ogni episodio ha deciso la canzone senza il bisogno di dover chiedere all'amico in questione: dai, canta un pezzo con me. Per esempio, ti faccio un esempio. Con Giuliano Sangiorgi eravamo insieme a un compleanno di Francesco Nuti, e sappiamo benissimo che momento sta attraversando già da un po' di tempo. Noi, io e Giuliano, siamo veramente grandi fan di Francesco, nonché grandi amici, e ci trovavamo in questo compleanno dedicato a lui, e c'era pianoforte, dai, cantate un pezzo insieme. Giuliano Salentino, grande amante del mare, io ho scritto Ci vorrebbe il mare, quindi la cosa ci ha unito subito, facciamo Ci vorrebbe il mare. Come l'abbiamo fatta lì, l'abbiamo fatta immediatamente anche nell'album. Con Ambra Angiolini, per esempio, Ambra era venuta al concerto, il suo primo concerto al Palaeuro nel 1991, lei era una bambina, giovanissima. Con la fascettina Marco Ti vorrei, e allora abbiamo deciso di fare insieme Ti vorrei. Quindi diciamo c'è stato un episodio per ogni canzone che mi ha unito immediatamente a quell'amico, a quell'artista, e insieme abbiamo deciso di farla al momento in cui ovviamente io avevo già programmato il progetto, no? Quindi poi in maniera naturale, istintiva, tutti quando li ho sentiti, quando li ho visti in occasioni, in festival o semplicemente a una festa privata, un compleanno, ci siamo parlati: ma perché non facciamo insieme questo pezzo? Quindi è nato veramente un progetto istintivo, in maniera naturale, è venuto fuori nella maniera migliore, e credo che siano queste le cose più belle per chi fa musica, ma più che altro per chi gode dell'affetto degli altri e lo ricambia. E forse qui nel godere dell'affetto degli altri, nel ricambiare, ci sta anche tanto del segno di questi 30 anni di carriera, di successo e di affetto di Marco Masini. Grazie, grazie. Dunque buon 30° anniversario a Marco mille. Masini. Grazie, grazie Marco. Mille a voi. Radio Tube Social Village. Siamo pronti per andare al cinema insieme. Vabbè, questa volta venite al cinema con me. Quando mi baci così. Negli anni 80 i popcorn erano più famosi dei Pooh. Poi si sono sciolti e oggi, con rispetto parlando, sono dei morti di fame. Ha finito con sta lagna all'isola delle meteore. Tony, pronto! Franco, facciamo una data sola per un magnate russo, San Pietroburgo. La reunion dei popcorn. Ma i soldi? 50.000! C'è una cosa che non ti ho detto. Durante il concerto, Olga smalizzerà il cavò. Questi si rubano 250 milioni e te ne danno uno solo. Piamoceli tutti noi. Voi non siete più una band musicale. Voi siete una band criminale. Che bello! bello quando si va al cinema e si trova una commedia nella quale tu semplicemente ti diverti, ridi, la trama è anche un po' diversa da quella che ti immaginavi. Questo film, del quale abbiamo sentito un brevissimo estratto, ma soprattutto una colonna sonora che vi entra nella testa come i tormentoni di Sanremo, si intitola La mia banda suona il pop. Allora, ci sono quattro cantanti di qualche anno fa che fanno una reunion, questi Popcorn, e noi abbiamo due dei Popcorn in studio con noi. Ho appena detto, ma come sono emozionata di avere questi begli uomini in studio con me, in ordine rigorosamente alfabetico. Benvenuto a Radio 24 a Christian De Sica. Ciao, grazie di averci ospitato. E benvenuto anche a Massimo Ghini. Grazie, anche a nome degli altri due che hanno purtroppo arrestato. Allora, non sono con altri problemi. Se vedete, adesso non volevo dire questo, sembrava più abbiamo gentile. Toccato due dei temi del film. Uno, che le cose non sono come sembrano e si può anche finire dei guai. Due, che è una reunion di ragazzi non più ragazzini, insomma. Sì, dei vecchi. Sì. Giovanotti, diversamente film dei mostri. No, meravigliosi. Allora, una reunion di un gruppo anni 80. Intanto vi siete divertiti a fare il gruppo di reduci, vi siete dovuti trasformare in questo gruppo. Io mi sono trasformato come Ivano dei Cugini di Campagna. Esatto, ecco, perché l'ispirazione un po' quella, il basettone, il capello afro. Meraviglioso. Capello afro. Ma poi, sai, a Fausto Brizzi, che è il regista di questo film, gli è venuto in mente quando i Pooh si sono riuniti, poi si sono sciolti, dopo c'è stato Balban e Romina, prima quindi che Marino Occhiena tornasse nei Ricchi e Poveri, quindi è stato, capito, l'artista prevede il presente, perché quando esce un film esce nel momento giusto, ma era stato pensato prima, l'artista prevede il presente. Infatti è stato il nostro caso, ispirato a Marino Occhiena, nel senso, la mia lui assomiglia molto, dove lui voleva assomigliare a Soggiu, il capello è un po' di Soggiu dei Ricchi e Poveri, sì. Ma invece assomiglia più a Marina, sì. Ha i capelli più mossi, insomma, sì, hai questa pettinatura un po' schiaffo. Beh, e gli altri due, Finocchiaro e Paolo Rossi? Finocchiaro è più una Cyndi Lauper. Sì. E Paolo Rossi è più Keith Richard proprio all'ultimo stadio. Bruciato. Sì. Keith Richard, come non è ancora diventato Keith Richard. Diego Abbadantuono è il nostro producer. Un po' senza scrupoli e un po' di cuore. Sì, a però metà. Insomma ci voleva fregare. Sì, direi assolutamente senza scrupoli. Vabbè, però vuole magnetico. Bene ai suoi artisti. Mannaggia, mi verrebbe voglia di svelare delle cose in questo film, è meglio di no. Questo recupero degli anni Ottanta è gustosissimo, però, anche se nei ricordi. Sì, beh, perché anche poi quelle musiche che sono state scritte appositamente dal maestro Zambrini. Tu devi sapere che nel film che ha vinto gli Oscar, Parasite, quello che ha vinto 4 Oscar, c'è In ginocchio da te. Sì. Quindi il nostro maestro Zambrini, quello che ha scritto la mia banda suona il pop, fa parte anche di Parasite. Quindi come certo. Questo mestiere, che è grosso equivoco. E Zambrini ha ricostruito le musiche dei Popcorn come quelle che scriveva per Gianni Morandi, per Patti Bravo, perché lui ha scritto La bambola, ha scritto se non ci fossi più te, così, ma se non avessi se più non te. Avessi più se te. Non avessi più te. Insomma, e devo dire che un pochino è il motore di questo film. La musica la fa veramente da Leone, la partita. Fausto Brizzi ci è capitato per caso adesso, voglio dire, no? Nel senso che proprio non l'abbiamo citato una volta. Sono no, io grande fan di Fausto, che ha sempre questo gusto nella commedia, del far ridere, rimanendo sempre nelle righe, senza, sì, magari qualche battutina un po' più piccante c'è, però sempre con grande. E in questo film c'è anche il fatto che è un action comedy. La reunion di questo gruppo, che sarà sciolto 30 anni prima odiandosi, nasce dalla richiesta che viene da questo miliardario oligarca russo che li seguiva da ragazzo, erano i suoi idoli, e quindi compie 50 anni e decide di riavere i Popcorn. Questo è il nome del nostro. E noi siamo quattro morti di fame, perché io sono il pianoforte dei matrimoni. Lui, io lavoro da un ferramenta. Quindi quell'altro suona per strada le canzoni milanesi davanti al Pantheon a Roma, e quell'altro è un alcolista. C'è un vizietto. È un disastro. Sì, quindi partiamo per la Russia, per San Pietroburgo, per fare questo concerto. Per questo ci ridai i soldi, per questo ci ristrutturiamo, ci ricambiamo, ci riparrucchiamo, ci rimpolpiamo. Però c'è una banda. musicale, una fregatura. Diventiamo una banda criminale perché poi siamo partecipiamo a un furto. Ma infatti io che a me piace andare al cinema senza sapere troppo della trama, e quando ho visto che iniziava la reunion ho detto vabbè, ma è passata mezz'ora del film, adesso che succede? Perché pensavo che fosse, no, e invece poi è imprevedibile. Meno male, meno male. Comedy action, un nuovo contento. Genere che bello, noi lanciamo. I like it. Ma raramente si fa in Italia. Poi. Vero, vero, verissimo. Tra l'altro poi vi siete trovati a Sanremo. È stato buffo, tra l'altro in un momento di turbinio tra ospiti, attesa del vincitore. Io dico sempre che essendo usciti, il nostro passaggio è stato alle 2:15 del mattino, siamo diventati gli idoli dei portieri di notte, dei metronotte. No, però avevate tipo l'87% di share, che questo non è noi male. Noi abbiamo vinto, adesso lo possiamo dire. I veri vincitori di Sanremo siamo noi. Il televoto. Ci voleva poco, sì. È bastato un passaggio e ci hanno votato. Allora, riuscire a far ridere oggi in un momento storico in cui nelle commedie si è detto tantissimo, si è detto quasi tutto, qual è la via giusta per far ridere adesso? Devo dirti che questo film, non perché ci sono dentro io o Massimo, che ne abbiamo fatti tanti di film di questo genere, però è un film dove si ride molto. Invece io mi meraviglio che molti colleghi oggi dell'ultima generazione è come se avessero paura di far ridere. Infatti se tu vai a vedere i film che sono usciti, che hanno avuto anche un grande successo al botteghino, però sono magari più dei film drammatici o melò che dei film tout court comici. Però sono fatti da dei comici, quindi è paradossale questo. Secondo me hanno paura di fare di sporcarsi, di essere politicamente scorretti, di non poter vincere il nastro d'argento, il Davide Donatello. Invece noi siamo più disgraziati, più guitti. Vabbè. Ma il ragionamento, il progetto quando è nato dicendo non vogliamo essere ipocriti, questa è una strada, la strada della comicità assoluta, che sempre in Italia poi trova inizialmente degli avversari e poi c'è sempre, diventi di culto. E allora in questo caso abbiamo detto senza ipocrisia ci lanciamo raccontando una storia comica molto divertente, dove cantiamo veramente, siamo noi che cantiamo. Perché ballate, perché avete una coreografia. Quella è sempre stata la nostra forza, voglio dire. Sì. Devo dire, l'hesitation. Chris, hai fatto tu un po' però da capo coreografo, perché tu No, avevamo una coreografa bravissima, che poi è stata una mia ex ballerina quando io lavoravo in televisione con Rita Rodi. Era una mia ballerina negli spettacoli di Antonello Falco e Gino Landi, e l'ho ritrovata qui coreografa, e però è stata anzi severissima, ci ha fatto provare tanto. Vi chiedo un'ultima cosa: com'è stato lavorare l'uno con l'altro? Insomma, non era certo la prima volta che vi incontravate, ma com'è stato fare i popcorn insieme voi due? Secondo me, come dire, era naturale che noi finissimo vestiti, truccati così, cantando e ballando. Era qualche cosa che ancora ci insieme aspettavamo. Quindi, e credo che adesso continueremo, il prossimo Sanremo già saremo direttamente in concorso, c'è una tournée, il disco che esce, il CD, insomma vari autori ci stanno chiamando. Oramai, come dire, chiudiamo la parentesi attoriale cominciamo quella musicale con le feste di piazza. Tanto Tony già sa tutti, Tony Brando già tutti gli indirizzi. Aspettando la mia banda suona al Pop 2, perché chi lo sa? Dipende solo esclusivamente dal pubblico. Sì, certo. Se il pubblico si divertirà a questo film, sicuramente ci sarà un seguito. Allora, tutti al cinema, ci può essere. Tutti al cinema. Allora, salutiamo Fausto Brizzi, il regista, salutiamo Angela Finocchiaro, salutiamo Paolo Rossi e Diego Abatantuono, che fanno parte di questo cast, e questi due splendidi signori che sono stati accanto a me, ancora in rigoroso ordine alfabetico, ma al contrario, Massimo Ghini, grazie mille, grazie Massimo, a te, grazie a tutti. E Cristian De Sica. Grazie, che piacere, che onore, ragazzi. Grazie. Ciao, vi aspettiamo al cinema. Quando mi baci così, io vorrei avere due vite, perché una non basterà per fare cose infinite. Quando mi abbracci così, nel cuore di Barcellona, vorrei portarti con me c'è inverno di Roma, su un treno di notte tu canta con me, mentre il cuore batte per te, viene giù la Rambla, perché tu sei la più bella, più bella. Ovviamente queste canzoni sono delle finte canzoni degli anni Ottanta che hanno appunto scritto, avete sentito, il maestro Zambrini, per i Popcorn, questa finta band. Davvero, è un film che io mi aspettavo molto diverso dal trailer. Io non ho imbarazzo a dire che mi sono molto divertita, ho molto riso, perché sapete, poi bisogna sempre fare quelli con la puzza un po' sotto il naso, no? Perché insomma solo i film impegnati, no, io vado anche a vedere le commedie, non sempre rido, questa volta ho riso, straordinari. Christian De Sica e Massimo Ghini, che ancora ringrazio per essere stati con noi, è il momento della viabilità e poi saremo ancora insieme per parlare di televisione. Radio Tube Social Village. Ed eccoci ancora insieme per l'ultimo spicchietto del nostro RadioTube Social Village. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di moda con la nostra Giulia Crivelli, che sta seguendo la settimana della moda milanese. Come sapete, insomma, sono giorni un po' accidentati, quindi ci ha raccontato anche un po' come sono andate, come stanno andando le sfilate, anche con qualche curiosità. Abbiamo parlato di musica insieme a Marco Masini, un'incursione, una brevissima incursione nel cinema, ma perché sono venuti a trovarci due amici come Massimo Ghini e come Christian De Sica. Ma a proposito di amici di Radio Tube, uno dei nostri preferiti aveva detto che l'avrebbe fatto, ce l'aveva detto a Radio Tube e l'ha fatto. Intanto gli do il bentornato al direttore di Sky TG 24, Giuseppe De Bellis. Ciao Marta, direttore. Ciao, buonasera, ciao. Allora, ci avevi detto l'ultima volta che sei venuto a trovarci, ragazzi, io faccio una trasmissione. Io ti ho detto, ma sei sicuro? Pensaci bene. C'è, arriva, ci siamo? Arriva. Oh, è arrivato ormai, sì. Allora, si parte lunedì, sì, alle 20.30 su Sky TG24, su, sì, Sky Arte il martedì alle 20.45 è disponibile on demand, mi sono preparata, sì, e si intitola Vite, l'arte del possibile. Intanto voglio chiederti com'è nata l'idea. Allora, l'idea è nata, l'idea è molto semplice in realtà, sono una prima stagione con 10 puntate, 10 personaggi, 10 storie, 10 vite appunto, per cui l'idea è molto semplice, ovvero raccontare storie di persone importanti che hanno ottenuto successo nella vita e che rappresentano qualcosa per se stessi, per quelli che gli sono vicino e anche però per molti, anche per la collettività, perché sono tutte persone appunto rilevanti in diversi ambienti. E l'idea mi è venuta pensando che noi siamo un canale che molto spesso racconta dal suo studio quello che accade nel mondo, e questo programma invece è fatto esattamente all'opposto. Siamo noi che andiamo nei luoghi di questi 10 personaggi, quindi usciamo, ovviamente usciamo sempre tutti i giorni andando a raccontare i fatti che sono d'attualità, però spesso i personaggi, quando li intervistiamo, vengono da noi. In questo caso invece siamo noi che andiamo da loro e raccontiamo le loro vite, la capacità, l'arte con cui hanno reso la loro vita possibile proprio nei luoghi in cui questo è diventato possibile. Scelti come e chi sono i primi personaggi? Scelti sulla base di diversi criteri. La prima stagione, che comincia appunto il 24 febbraio lunedì e si concluderà a fine giugno, sono 10 personaggi scelti sulla base di tre criteri. Uno, la rilevanza internazionale, cioè sono tutti personaggi italiani molto conosciuti all'estero. Due, il secondo criterio è che vengano da mondi molto diversi tra loro, infatti sono, vedrete, capitani d'industria, scienziati, architetti, proprietari di aziende del lusso, ma anche uomini di cultura e donne di cultura, quindi tanta varietà. Tre, ovviamente, che ci sia un po' di equilibrio di genere, che quindi siano uomini e donne. Bene, e bene. Scusa, sono di parte, ma sai che gioisco sempre su questo. E poi c'è un quarto criterio, in realtà, ne aggiungo un altro, è che appunto abbiano voglia di mettersi in gioco in un luogo che li rappresenta. Questo è forse il cuore di tutto. Bene, io sono molto curiosa. Allora, il primo è Marco Tronchetti Provera. Sì, il primo è Marco Tronchetti Provera, si comincia appunto lunedì con lui, intervistato nel cuore della sua azienda, quindi nel cuore di Pirelli, si è aperto, ha parlato di molte cose, ha parlato proprio della sua azienda, della sua vita, e per la prima volta si vedranno anche le foto dei suoi genitori. Questa è una cosa, è un enorme privilegio che ci ha concesso, perché parla anche dei suoi genitori, e quindi devo dire che è un'intervista molto diversa rispetto a quelle che solitamente un uomo come Tronchetti Provera fa, perché giustamente spesso parla soltanto della cosa più importante per lui, ovvero del suo business. Qui parla di tanto altro, parla della sua infanzia, parla anche di come ha costruito quello che ha costruito, ma parla anche di Milano, parla del suo rapporto con la famiglia d'origine, quella che oggi invece è la sua famiglia, ovvero i suoi figli. Quindi è un'intervista molto larga. Giuseppe, a proposito di interviste diverse, anche per te è una sfida diversa, però. Sì. L'intervista televisiva com'è stata? È questo tipo di intervista come avventura? Allora, molto interessante, lo è ancora perché stiamo producendo, quindi ogni volta scopro qualcosa di nuovo, no? Quindi siamo in una fase, il programma è partito nella sua produzione, comincia la messa in onda, ma nel frattempo noi continueremo a girare tante altre puntate, per cui, ripeto, lo sto scoprendo. Sì, è molto diversa, innanzitutto perché io mi sono sempre considerato più un ritrattista che un intervistatore, quindi uno che è più abituato a raccontare alle persone facendosele raccontare da qualcun altro, interpretandole, rispetto al condividere col protagonista stesso il colloquio. Quindi molto interessante. Ovviamente la televisione poi non ti perdona, perché se sbagli una domanda o più domande, l'intervista è del tutto inefficace, per cui a differenza di quanto accade sui giornali, che puoi fare molte più domande di quelle che ti servono e poi dopo scegli soltanto il meglio. Evidentemente questo lo puoi fare più in televisione, ma chi fa la televisione sa che se produci troppo puoi rendere un'intervista un estratto più gradevole e più complicato, per cui qui bisogna prepararsi in maniera diversa, bisogna essere molto più mirati, e quindi sicuramente una grande sfida. Abbiamo anche fatto una grande sfida produttiva, perché qui in questa serie stiamo cercando di tirare fuori il meglio anche delle nostre capacità di rendere le immagini, per cui spesso portiamo un drone, spesso portiamo diverse, come dire, telecamere innovative che permettono di fare un racconto, e integreremo i testi alle immagini, quindi alcune parole chiave, alcune frasi chiave degli intervistati saranno rese anche in maniera testuale. E anche perché vi ospitano anche i vostri vicini amici di Sky Arte, sai che sì, loro sono proprio molto molto molto attenti su questo, sì, su questo aspetto, quindi è una garanzia, insomma, che vi sia venuto molto bene, eh. Sì, sì, siamo molto contenti, e sicuramente è uno dei punti fermi del nuovo percorso del Sky TG24, insieme agli altri programmi che stiamo pian piano integrando, e come abbiamo già detto nelle occasioni in cui ci siamo visti, l'idea è di lavorare moltissimo sull'informazione, sulle news, come facciamo da sempre, ma di integrare questo a un linguaggio più approfondito. Sicuramente Vite, così come Stories, che invece è la nostra serie di interviste ambientate in studio, ma in maniera diversa, ai protagonisti del mondo dello spettacolo, rappresentano un punto nuovo per un canale come il nostro. Ho una curiosità che potrebbe sembrare tecnica, ma ogni 2 settimane una puntata nuova, come mai? Sì. Allora, la ragione è che noi abbiamo un palinsesto molto denso e quindi vogliamo alternare la tipologia di contenuti che facciamo. E poi perché c'era un tempo definito in cui io volevo che si completasse la prima serie, ma che non fosse un tempo troppo limitato, cioè che non fossero 10 settimane consecutive, ma che fossero un po' più alternate, anche perché ci saranno diverse repliche, perché nella strategia di integrare l'approfondimento c'è anche il fatto che ci siano dei contenuti, e questi lo sono, che non abbiano tempo. Un canale che fa della velocità e quindi del tempo il suo punto di forza deve anche imparare a lavorare col tempo dilatato, e questi sono prodotti da televisivi da tempi dilatati, per cui Noi abbiamo un pubblico affezionatissimo, ma ovviamente un pubblico che ci consuma per approvvigionarsi di informazione. Sempre di più stiamo scoprendo che il nostro pubblico vuole anche avere qualcosa di più. Per cui, ma non tutti ci guardano nello stesso momento, e il fatto che ci sia questa possibilità anche di fruizione on demand agevola anche la possibilità che tu faccia delle cose in maniera un po' più dilatata. Per cui noi produciamo, diamo 2 settimane di vita a questa intervista, poi finisce on demand e poi ne proponiamo un'altra. Beh, mi piace moltissimo. Allora, io ti faccio un in bocca al lupo enorme per questo Vite che appunto comincia lunedì alle 20.30 su Sky TG24, disponibile anche on demand su SkyTG24.it, ma anche il martedì alle 20.45 su Sky Arte. Ancora in bocca al lupo e ti aspetto presto in studio ancora quando ti va di venire, al direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis. Ciao Giuseppe. Grazie Marta, grazie. Ciao. Allora, un abbraccio, ancora un in bocca al lupo. Noi adesso dobbiamo interromperci, l'appuntamento importantissimo con il nostro GR24 delle 17, c'è già pronto in studio Gigi Donelli. Noi ci ritroviamo tra poco con la seconda ora del nostro sabato pomeriggio in diretta, quella di RadioTube Social Network.